strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E alla fine ci siamo arrivati. Il 4 maggio è la data d'inizio della cosiddetta fase 2, con dei risvolti importanti anche per il mondo dell'auto. Innanzitutto riapriranno i concessionari, una notizia importante per i dealers dell'auto che sono stati, come abbiamo ricordato anche nel corso delle nostre trasmissioni, tra i più colpiti dal lockdown da coronavirus. Il DPCM del 24 aprile ha infatti previsto il ripristino delle attività con codice Ateco 45, quindi commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli, e ha concesso dunque alle concessionarie di riaprire per l'attività di vendita la consegna dei veicoli targati e pagati, i tagliandi e il cambio degli pneumatici, purché naturalmente sia rispettato il protocollo di sicurezza anticontagio. Il presidente di Federauto, già ospite la scorsa settimana a Strade e Motori, in una lettera ai soci ha confermato la riapertura, ma ha anche sottolineato che sono del tutto infondate le voci secondo cui sarebbe impossibile la vendita al pubblico. Scopriamo tutti i dettagli nella prossima scheda. A partire dal 4 maggio le attività legate alla vendita e alla riparazione dei veicoli potranno ripartire. Le concessionarie riapriranno quindi le loro porte, attenendosi strettamente al protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile. L'acquisto dei beni e dei servizi forniti dalle concessionarie sarà configurato come necessità da indicare nell'autocertificazione necessaria agli spostamenti. A questo proposito, in una lettera ai soci, Federauto ha raccomandato alle concessionarie di inviare ai clienti un'email per confermare appuntamenti, tagliandi o ritiro dell'auto, da mostrare, se necessario, agli organi di controllo. Le concessionarie provvederanno a tutte le attività organizzative interne indispensabili per la prossima riapertura, soprattutto in termini di pulizia, sanificazione dei locali e adeguamento della distanza tra le postazioni di lavoro. E intanto l'Europa dell'auto è in piena ripartenza. Fiat Chrysler, in anticipo sulla data del 4 maggio, ha riattivato dal 27 aprile parte della produzione nelle fabbriche italiane di Atessa, Mirafiori, Melfi, Pomigliano, Termoli e Cassino. Il gruppo Volkswagen ha ripreso a lavorare, seppur parzialmente, in Germania e in Slovacchia, mentre il gruppo Daimler ha già ripreso il 20 aprile la fabbricazione di motori in gran parte degli stabilimenti tedeschi. BMW ha un altro calendario. Il primo stabilimento del gruppo ad aprile sarà in Gran Bretagna, il 4 maggio si aspetterà l'11 per quelli in Germania. Audi invece è ripartita già da tempo in Ungheria. Oltre manica si attende il 18 maggio, data in cui dovrebbero riprendere l'attività di due degli impianti di Jaguar Land Rover. Anche Ford infine ha annunciato la riapertura dei siti europei. E anche il mondo della componentistica segue con attenzione questa ripartenza. Uno studio internazionale, riportato in Italia dall'osservatorio Autopromotec, ha messo in rilievo il momento di difficoltà che stanno vivendo le aziende fornitrici di componentistica automotive a causa ovviamente del Covid. Il 46% di esse segnala un impatto modesto della crisi sulle attività, il 25% un impatto rilevante, il 9% un impatto grave. Le preoccupazioni delle aziende legate agli effetti del coronavirus sono principalmente riferite ovviamente al calo della domanda globale di autoveicoli, ma anche alla minore disponibilità di materie prime. E cambiamo argomento, anche se in qualche modo il tema, il comun denominatore resta quello dell'emergenza Covid-19. Dicevo, cambiamo argomento perché parliamo di revisioni. Come sapete, l'abbiamo ricordato anche diverse volte nel corso delle nostre precedenti trasmissioni, c'è in corso una sorta di sanatoria, una sospensiva per chi doveva fare le revisioni dell'auto o del proprio veicolo in questo periodo. Cerchiamo un po' di fare il punto della situazione in compagnia del nostro ospite, che è Giorgio Saverio Casalino, Country Operation Manager di Decra Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera Marco. Massimo, buonasera agli ascoltatori e grazie per l'invito. Allora, cominciamo con il ricordare che cosa succede in questo periodo e fino a quando è in vigore questa sospensione dei termini per chi deve revisionare il proprio veicolo. Oggi come oggi è ancora in vigore il DPCM del 17 marzo, il cosiddetto Cura Italia, che consente a tutti i veicoli con scadenza revisione entro il 31 luglio di poter circolare fino al 31 ottobre. Di fatto quindi tutti i veicoli con scadenza revisione prevista normalmente in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio potranno fare questa revisione nel mese d'ottobre. Certo, con delle conseguenze che però tra poco scopriremo perché non è tutto così semplice. Però rimaniamo su questo mondo, quello delle revisioni. Cerchiamo di capire un po' anche cosa rappresenta, quanto vale questo settore delle revisioni. Decra tra l'altro è leader mondiale in questo settore, quindi suppongo che ha un osservatorio sicuramente privilegiato su questo. Il settore delle revisioni è piuttosto importante, io direi che abbraccia trasversalmente l'intera industria del settore post-vendita. Basti pensare che per aprire un centro revisione occorre dimostrare di svolgere già l'attività di gommista, di carrozziere e di meccatronica. Ad oggi abbiamo circa 9.000 centri, oltre 9.000 centri di revisione in Italia, che già principalmente appunto operano come carrozzieri, officine generiche, meccatroniche o gommisti. A livello di valore economico, il giro d'affari annuo delle revisioni è di circa 3 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo è dato dal costo in sé delle revisioni e 2 miliardi sono legati alle cosiddette attività di pre-revisione, ossia quella piccola manutenzione necessaria per rendere un veicolo in grado di superare il controllo della revisione. Certo. Ritorniamo al tema della sospensione dei termini, quindi abbiamo visto tutto rimandato ad ottobre. Che cosa succederà ad ottobre però per quanti debbono fare questa pratica di revisione? In realtà gli impatti di questo posticipo a ottobre sono diversi. Il primo è innegabile sul tema della sicurezza, perché avremo un gran numero, e poi le quantifichiamo, di veicoli che circoleranno senza aver fatto il periodico controllo di sicurezza, perché non dimentichiamoci che la revisione non è un mero controllo formale, ma il principale controllo per verificare la sicurezza del veicolo che guidiamo, chiaramente a tutela nostra, ma anche degli altri utenti della strada. Quindi il posticipo, quindi il rimando di questo controllo fondamentale di sicurezza, rischia di avere forti impatti sulla sicurezza stradale. Un altro impatto l'avrà dal punto di vista finanziario, l'abbiamo citato poc'anzi, gli oltre 9.000 imprenditori che sono piccole e medie aziende, ai quali fondamentalmente è stato tolto gran parte dell'ossigeno della loro attività fino ad ottobre. E poi l'impatto macroscopico è quello sui numeri. Se noi rimandiamo le revisioni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, che contate sono circa 6.700.000, le rimandiamo ad ottobre, quando ci sarebbero già le fisiologiche revisioni di ottobre, che sono un altro 1.300.000, arriviamo a teoricamente dover fare oltre 8 milioni di revisioni in ottobre, cosa che non è tecnicamente possibile data la capacità dei nostri centri di revisione in Italia, che arriva a livello teorico poco sopra i 4 milioni. Quindi rischiamo di avere oltre 3 milioni, quasi 4 milioni di veicoli comunque rimandati ad ottobre, ma che non potranno fisicamente fare la revisione ad ottobre. E quindi probabilmente verranno scaglionati nei mesi successivi. Quindi qual è la vostra proposta per cercare di fronteggiare questa sorta di emergenza? Questa analisi l'abbiamo condivisa anche a livello istituzionale con le commissioni trasporti di Camera e Senato, e oltre a questa analisi abbiamo fatto una nostra proposta, che è quella di sì consentire il posticipo delle revisioni, ma non su ottobre, ma anticiparle perlomeno ad agosto e scaglionare su più mesi questi volumi che vengono rimandati anziché sul solo ottobre. Ora noi non dimentichiamoci chiaramente la ratio di questa norma il 17 aprile è stata fatta durante il picco della gestione della criticità dell'emergenza che stiamo ancora vivendo, e quindi l'obiettivo primario era quello di diminuire gli spostamenti per quanto possibile, allungando il periodo molto in là. Ora si è poi visto che finalmente forse stiamo riuscendo comunque a gestire anche per altre attività la ripresa appunto delle attività, che nel momento sia maturo per affrontare anche il tema in ambito revisioni. E noi ovviamente continueremo a seguire questo dibattito e anche questa proposta di anticipare ad agosto le revisioni che per il momento sono rimandate tutte ad ottobre. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Giorgio Saverio Casalino, Country Operation Manager di Decra Italia. Termina qui la prima parte di Strade e Motori e parleremo nella seconda parte tra pochi minuti di inquinamento con il presidente di ISPRA. A tra poco. A Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, dedichiamo questo spazio al tema dell'inquinamento ambientale, un tema particolarmente discusso in queste settimane perché abbiamo letto, abbiamo ascoltato anche i pareri di molti esperti su quello che sta succedendo nelle grandi città, caratterizzate in queste ultime settimane da un blocco del traffico importante, ma dove in molti casi a tutto questo non ha corrisposto un relativo blocco degli agenti inquinanti e quindi abbiamo delle centraline di rilevazione in molte città che in un momento di blocco totale del traffico hanno registrato livelli di inquinamento che erano pari o addirittura superiori a quelli dello stesso periodo degli anni scorsi. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, soprattutto per quanto riguarda gli inquinanti ambientali prodotti dalla mobilità, e lo facciamo in compagnia del nostro ospite che è Stefano Laporta, presidente di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, qualche giorno fa, lo scorso 21 aprile, ISPRA ha presentato un report sull'andamento delle emissioni nazionali di gas serra per delineare la situazione. Allora, cerchiamo di capire innanzitutto dove stavamo andando per poi capire dove stiamo andando adesso. Allora, noi abbiamo presentato questo report che testimonia il fatto che comunque nel nostro paese dal 1990, che è l'anno d'inizio poi delle rilevazioni sistematiche ad oggi, il tema delle emissioni di gas serra è stato sicuramente affrontato nel paese e ha subito un sensibile decremento, tanto che rispetto al 1990 abbiamo registrato un decremento del 17%, quindi parliamo di circa 428 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, di 0,9% rispetto, in meno rispetto al 2017. La diminuzione è dovuta soprattutto alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare l'idroelettrico e l'eolico, e anche a una politica di alcune azioni di incremento dell'efficienza energetica nei settori industriali. Quindi direi che il trend era abbastanza positivo, anche perché, come è noto, nel paese era stata fatta da tempo una politica anche di incentivi rispetto alle forme di energia rinnovabile. Ecco, quando parliamo di inquinamento, parliamo di vari elementi che lo compongono, il CO2, l'NOx, quindi l'ossido di azoto, il PM10, insomma tanti elementi, e ognuno fa la sua parte, ovviamente. Tra un po' arriveremo all'ossido di azoto, che è quello che è più legato in qualche modo al mondo dei trasporti. Sul PM10 invece sembra confermata un'analisi che vuole nel riscaldamento la principale fonte di emissione, un dato che è relativo appunto agli anni scorsi e che in qualche modo sembra essere confermato invece anche dalle rilevazioni di questi giorni. Sì, intanto la ringrazio per la domanda, perché mi permette di confermare il fatto che ovviamente quando si parla di inquinamento si parla di vari fattori, quindi anche rispetto alle richieste di questi giorni di avere dei valori percentuali che diano complessivamente il valore di diminuzione dell'inquinamento è una risposta che in assoluto non si può dare. Per quanto riguarda il PM10 primario, lei ha ragione, abbiamo anche ribadito nel rapporto che abbiamo presentato 2 giorni fa come il riscaldamento sia la fonte principale di emissione anche nel 2018 e ha contribuito al totale complessivo per oltre il 50%, siamo vicini al 54%, e questo è un settore che con un più 41% è l'unico che ha aumentato le emissioni proprio a causa della crescita della combustione di legna per il riscaldamento residenziale. Sono calate invece di misura significativa oltre il 60% quelle prodotte dal trasporto stradale, che rappresentano comunque una misura percentuale poco superiore al 10% del totale. Ecco, fin qui il dato statistico annuale che avete in qualche modo rilevato, e le centraline, come dicevamo, di rilevazione che in questi giorni stanno monitorando la qualità dell'aria, pare che abbiano registrato dei picchi proprio in corrispondenza delle giornate più fredde. Sì, per quanto riguarda il particolato c'è da dire anche che è uno dei fattori di inquinamento molto legati anche alle condizioni meteoclimatiche, per cui non deve stupire se ci sono degli inquinanti direttamente correlati per esempio al tema del traffico come il biossido di azoto, che sono sensibilmente diminuiti, e questo è normale vista la situazione di lockdown nella quale ci troviamo. Altri invece come il PM10 o il PM2,5, cioè i particolati, sono diminuiti in misura percentualmente minore rispetto agli inquinanti diretti, o alcuni in alcuni giorni addirittura non sono diminuiti affatto, ma questo, come ripeto, dipende da varie condizioni, in particolare il clima. Tra la fine di febbraio e inizio marzo abbiamo avuto dei fenomeni che hanno portato sabbie dalla zona del Caspio, del Caucaso, e questo ha determinato delle rilevazioni che sembrano essere, come dire, diverse dalla situazione che ci aspettavamo. Certo, lei ha introdotto il tema dei biossidi di azoto, e qui invece questo lockdown ha portato dei risultati positivi. Quali? Sì, su questo il dato diretto è sicuramente significativo ed eloquente. Peraltro abbiamo anche condotto uno studio con le agenzie regionali interessate nella zona del bacino padano, che è stato presentato a fine marzo. E tra l'altro ci siamo avvalsi anche di uno strumento sperimentale, perché abbiamo applicato anche le tecnologie che derivano dall'osservazione tramite satelliti della Terra che afferiscono al programma Copernicus, e su questo sicuramente c'è stata una sensibile diminuzione nel periodo che abbiamo rilevato, che più o meno va da febbraio a marzo, una riduzione del biossido di azoto di oltre il 40%, insomma si arriva quasi al 50% nel periodo di riferimento, quindi sicuramente è un effetto del lockdown legato all'emergenza sanitaria in corso. Ecco, lei prima diceva, riferendosi ai dati che avete presentato e relativi all'andamento fino al 2019, che in particolare sui PM10 i trasporti avevano registrato un miglioramento davvero sensibile in questi ultimi anni, già contribuivano poco appunto a questo elemento, adesso contribuiscono ancora di meno. A cosa dobbiamo imputare questo miglioramento? Intanto sono state anche introdotte delle nuove tecnologie proprio rispetto ai motori delle autovetture, si è intensificato anche il mercato delle auto con alimentazione alternativa rispetto a quelle tradizionali, e anche sotto il profilo poi dei combustibili, sia pure in maniera meno significativa rispetto ad altre forme di tecnologia, sono stati anche introdotti dei miglioramenti che poi hanno migliorato da un lato le performance ovviamente dell'autovettura, ma anche hanno diminuito i fattori di emissione. Poi c'è anche un tema che sono aumentate delle forme anche di mobilità alternativa, soprattutto nelle grandi città, anche se ancora lontani dai livelli che ci attendevamo prima della fine dell'anno, all'inizio di quest'anno, quindi si è fatto maggiormente ricorso a modalità di mobilità alternativa, al car sharing, insomma anche a modalità diverse da quella del trasporto per autovetture, e quindi questo ha contribuito nel corso degli anni a una diminuzione di questo fattore di pressione sull'ambiente. Certo, abbiamo parlato di gas serra, abbiamo parlato di clima alteranti, abbiamo parlato di biossido di azoto e di PM10, quali sono gli altri elementi che dobbiamo tenere sott'occhio? Ma guardi, questi sono quelli che maggiormente influiscono, poi come dicevamo prima, cioè sono alcuni che dipendono direttamente dal traffico veicolare, come per esempio il benzene e più in generale gli ossidi, e questi sono tutti in diminuzione, altri che riguardano il particolato, e questi hanno degli indici anche di diminuzione meno significativi. Io segnalerei anche il tema del settore dei processi industriali, in cui nel 2018 le emissioni sono scese oltre il 14%, determinato dalla riduzione delle emissioni di protossido di azoto, perché sono state adottate nuove tecnologie di abbattimento delle emissioni. Segnalo un aumento per esempio delle emissioni derivanti dalla gestione e dal trattamento dei rifiuti, e anche questo un tema che dobbiamo affrontare, così come abbiamo anche affrontato il tema con un focus particolare delle emissioni di gas serra dal settore agricoltura, che comunque negli ultimi anni sono calate rispetto a quanto si utilizzava negli anni precedenti. Quindi bisogna fare sempre un'indagine ad ampio spettro e considerare una serie di fattori che poi influiscono complessivamente sulla qualità dell'aria e sull'inquinamento. E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo dibattito. Speriamo presto di avere di nuovo ospite il presidente di ISPRA per commentare i dati finali relativi a questo periodo di lockdown che si appresta a terminare gradualmente, così come disposto dal governo e dalle autorità. Termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Stefano Laporta, presidente di ISPRA. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.